Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, scusate ovviamente prima di tutto del ritardo, ma oggi mi sa che è una giornata modello legge di Murphy e purtroppo oltretutto sono anche da solo stasera come 451 frammenti sonori, dato che il buon Max Macchia non sarà in diretta con me, dunque un saluto d'Elisio Scarpa. Ritardo, scusatemi, di 10 minuti quasi, ma è stato veramente un calvario, macchina spaccata e dunque calvario a piedi e in autobus per arrivare in radio, ma noi teniamo duro anche perché sembra quasi una sorta di complotto nazionale internazionale, perché scherzi a parte, stasera affrontiamo un tema molto politico che abbiamo affrontato un annetto circa fa, legato alla trasmissione Lavoro non lavoro, e si muove sempre su queste direttrici, dunque chissà mai che qualcuno ha voluto un po' boicottare una trasmissione più diciamo polemica e politica rispetto a tante altre che sviluppiamo nel corso della stagione di 451 frammenti sonori. Qual è il titolo della puntata? Beh, il titolo della puntata è Arbeit macht frei, una frase che insomma fa ricordare ai grandi amanti degli Area, uno storico disco piuttosto impegnato e militante, ma soprattutto questo è il riferimento chiaro della trasmissione. Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, era la scritta sul campo di sterminio di Auschwitz, e dunque chiaramente una polemica e un riferimento chiaro al periodo nazista, e anche quanto questa frase continua a essere presente nella nostra società, nella società capitalistica, e in particolar modo in questo momento storico, quasi ormai 4-5 anni di crisi, il lavoro appunto visto come forma necessaria e essenziale anche di lotta, giustificatissima, e poi declineremo ovviamente questo discorso in maniera più chiara. Arbeit macht frei, ovviamente noi abbiamo voluto giocare e polemizzare con un sottotitolo che chiaramente è una traduzione polemica in italiano, il lavoro rende schiavi, questa è la nostra ovviamente posizione di trasmissione e posizione chiaramente politica, e stasera declineremo un percorso musicale che inizierà con una sorta di flusso sonoro, gruppi legati soprattutto alla musica industriale ma non solo, anche a una certa techno ipnotica e soprattutto ripetitiva meccanica, ricordare appunto il ritmo del lavoro, la ripetitività e ovviamente l'assuefazione e anche l'annullamento di molte identità e individualità dentro l'ottica del lavoro. E aprendo, dato che purtroppo il tempo è oltretutto stringato e diminuito, dato che 10 minuti li abbiamo persi, partiamo subito con un gruppo storico industriale, un gruppo piuttosto anche impegnato dal punto di vista politico, gruppo spagnolo Splendor Geometrico, un gruppo assolutamente fondante degli anni 80, dalla loro antologia uscita nel 2005, antologia dal 1981 al 2003, andiamo a prendere un brano del 1989 che insomma fa ricordare il ritmo quasi meccanico e ripetitivo della fabbrica, ma non solo, perché poi la fabbrica la possiamo declinare in questi anni in tante fabbriche legate a una sorta di catena di montaggio, dai call center a tantissimi altri lavori precari, devastati e devastanti. Dunque partiamo con Splendor Geometrico, col fiatone, perché sono arrivato veramente correndo, Anthology 1981-2003, grande pezzo e apertura dunque nella trasmissione Arbeit macht frei. Buon ascolto. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta, effettivamente un grandissimo brano, questo del 1989, formazione assolutamente seminale per l'industrial, ma anche per tutto nell'elettronica che si è sviluppata negli anni a seguire. Splendor geometrico, formazione assolutamente importante nella scena industrial, come vi ho già detto in incipit, in apertura della presentazione ora, e da qui, dalle Splendor geometrico, con i ritmi ossessivi, martellanti, ripetitivi, che per certi versi appunto rappresentano efficacemente la dimensione del lavoro salariato, del lavoro meccanico, ripetitivo, indotto, e un'industria che è chiaramente presente nel suo quasi DNA, la rappresentazione di questa meccanicità, di questa ripetitività e ossessività, che è appunto uno degli elementi molto presenti in lavori e nel lavoro in genere. E Splendor geometrico che apre invece a un'altra formazione che esce per certi versi ovviamente dall'industrial, ma entra diciamo nella scena più legata all'avanguardia, alla musica sperimentale, seppur partendo da una sorta di avant rock. Si tratta di un progetto di Brooklyn, dunque newyorkese, costituito da Ben Greenberg, che ha costituito praticamente 2 anni fa il progetto Hubble, che ha fatto uscire fino ad ora ben 3 dischi, e il disco di apertura Hubble Drums, disco splendido per la Northern Spy. Buon Greenberg, aiutato da altri musicisti, porta avanti questa sorta di progetto solo che è quasi costituito interamente dalle sue sperimentazioni alla chitarra, al suo strumento cardine, creando addirittura delle costruzioni minimaliste, ipnotiche, che con la chitarra crea addirittura dei suoni che ricordano effettivamente la batteria e le percussioni. È geniale nel modo in cui lavora elettronicamente e anche artigianalmente sullo strumento chitarristico per creare appunto un suono assolutamente originale. E di strumentisti, chitarristi e compositori che sperimentano sullo strumento oggetto e sulle interazioni tecnico-elettroniche nei riguardi di uno strumento elettroacustico come la chitarra, ce ne sono tanti. Dunque riuscire a essere estremamente originale e personale sicuramente non è facile dopo tanti anni di sperimentazioni e di sperimentatori. Andiamoci dunque a sentire un brano di Hubble Drums, un brano estremamente vicino a una idea minimalista e dunque anche ossessiva e ipnotica, e assolutamente ovviamente dentro l'idea appunto del lavoro. Dunque partiamo, Hubble, e buon ascolto. Thank you. Certo, questo finale spettacolare, appunto collegato a questo splendido lavoro di Hubble, fa ricordare quasi il suono stridente di qualche macchina, di qualche appunto macchinario legato, non lo so, a una catena di montaggio, un alto forno, qualcosa che ricorda appunto un suono stridulo che ti entra appunto nell'orecchio, uno degli aspetti comunque presentissimi nel lavoro, non solo legato all'aspetto della fabbrica che ora in questi ultimi anni non solo si è piuttosto diradato, ma anche in tantissimi altri lavori appunto ripetitivi e alienanti che possono ricordare appunto quello che viene maggiormente in mente, sicuramente la catena di montaggio del call center, ma non solo, tantissimi altri lavori che sono figli probabilmente, quasi sicuramente, degli anni zero, anche se si sono sviluppati inizialmente già dagli anni 90 e addirittura in alcuni paesi dagli anni 80, ma legati comunque anche alle nuove tecnologie. Un aspetto appunto quello del lavoro che viene rappresentato ed è stato rappresentato fino ad ora da Splendor Geometrico e da Hubble, ma il lavoro chiaramente è diventato uno degli elementi anche cardine di questi ultimi anni, connesso alle rivendicazioni chiaramente delle lotte sociali e politiche dei movimenti e di tutte le forze che cercano appunto di ritagliare, di conquistare, più che ritagliare, un aspetto legato chiaramente al reddito fondamentalmente. Il lavoro è il principale veicolo e canale per raggiungere appunto un reddito che definirei appunto di sopravvivenza più che di esistenza. Bene, anche questo ormai ci viene tolta a gran parte della popolazione italiana, ma non solo, a molte popolazioni dell'Europa attualmente, in primo luogo Grecia e Spagna, e non a caso insomma c'è stato uno sciopero generale sul piano europeo importantissimo il mercoledì scorso, che è stato partecipatissimo non solo in Italia ma soprattutto in Spagna, Grecia, ma anche in altri paesi europei. Una battaglia chiaramente legata al discorso connesso al lavoro che manca, che viene tagliato, licenziamenti, cassa integrazione, ma anche lo stesso indotto bolognese colpito pesantemente, con moltissime aziende che hanno chiuso e moltissime persone finite appunto nei meandri della disoccupazione, della cassa integrazione. E questo appunto è un elemento che ha coinvolto ad esempio una delle lotte importanti che hanno attraversato questa settimana bolognese, che purtroppo, ma per certi versi ce l'aspettiamo anche dai media mainstream, ma anche da media che si considerano alternativi, hanno fatto passare ben poco questa notizia in maniera piuttosto sottesa e soprattutto poco specificata. Una battaglia importantissima che ha attraversato, forse una battaglia anche unica, cioè il blocco che è stato fatto da moltissimi lavoratori, gran parte oltretutto immigrati, ad Anzola dell'Emilia, alla centrale adriatica della Coop, un picchetto che ha bloccato letteralmente l'entrata e l'uscita delle merci in una centrale distributiva fondamentale di Anzola per ben 4 giorni, forse addirittura 5, insomma, chiuso purtroppo il picchetto venerdì, ma per difficoltà oggettive, per mancanza di forze, anche ovviamente per minacce e rischio di arresti e di repressione piuttosto pesante da parte anche della polizia, chiamata ovviamente dalla stessa Coop Adriatica. Perché questa battaglia è una battaglia di lavoratori che erano già assunti in condizioni piuttosto misere della stessa Coop Adriatica, che però ha deciso di appaltare il movimento merci senza ovviamente consultare gli stessi lavoratori, attraverso ovviamente un accordo con i soliti sindacati confederali, ad appaltare il movimento merci appunto a un'altra cooperativa, la Stercoop. E questa Stercoop praticamente, con questo cambio, con questo appalto, questi lavoratori avranno un peggioramento netto economico e dovranno oltretutto sborsare, si parla tra i 2.500 fino ai 5.000 euro dilazionati in busta paga per diventare socio lavoratori. E in più, oltre a questa detrazione ulteriore, nei 6 mesi iniziali di questo nuovo rapporto di lavoro con la Stercoop potranno essere licenziati, perché ci sarà proprio 6 mesi di periodo di prova. Dunque un attacco pesantissimo da un centro fondante, no? la Coop, che è il potere economico e politico di tutta questa regione, chiaramente non viene toccata. La notizia è passata molto sotto silenzio, una battaglia dura che non si era mai vista, appunto un blocco del genere. Adesso i lavoratori ovviamente hanno dovuto lasciare per il momento il discorso del picchetto del blocco, ma sono in stato di agitazione. Vi dico già questa cosa, che ci è arrivata a livello informativo, che domenica prossima probabilmente verrà fatta un'assemblea pubblica per coinvolgere anche molte altre persone che purtroppo non conoscevano neanche questa iniziativa, questa lotta, e probabilmente dovrà essere fatta in un centro civico ad Anzola. Però chiunque voglia avere informazioni, direi che il sito più facile anche da raggiungere e più conosciuto, che è Zic, lì sicuramente qualcuno, se vuole interessarsi, dovrebbe uscire la notizia, almeno comunque nei canali di movimento chiunque può attraversarli a livello internet e potrà avere questa notizia di questa assemblea. Ovviamente noi come trasmissione, come compagni, appoggiamo e appoggeremo questa lotta, perché è una lotta importante anche sui luoghi di lavoro, su un lavoro che c'è e peggiora, che potrebbe anche comunque finire nei confronti di una massa di lavoratori ricattata e sfruttata purtroppo ancora di più degli stessi italiani, come gli immigrati. E speriamo appunto che anche altre lotte possano andare avanti e prolificare. Chiaramente noi stiamo dentro il discorso lavoro non lavoro, e su questa iniziativa che ho voluto comunque comunicare agli ascoltatori partiamo con un altro brano, un brano che rientra pienamente nel tema industriale, un personaggio un po' equivoco perché spesso ha provocato delle proteste, delle prese di posizione piuttosto inquietanti per certe sue provocazioni un po' legate al nazismo, anche se molti lo definiscono assolutamente fuori da questo ambito, anche perché esce da un'etichetta e viene prodotto da un'etichetta importante come la Mute, sperimentale, alternativa, però ultimamente sta un po' esagerando, per cui non si capisce bene dove voglio andare. Noi lo diciamo, però il disco ultimo di Non, questo è il progetto, poi in realtà il personaggio è Boyd Rice, è l'ultimo lavoro uscito per la Mute, appunto, Back to Mono, e ci andiamo a sentire un brano che rappresenta perfettamente l'idea del lavoro e l'idea industrial, con una voce cattiva, arrabbiata, inquietante, tipica di Boyd Rice. Buon ascolto. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Leatherette. Warm. warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Join the car crash set. E rientriamo in voce, abbiamo mixato non con Brand Bauer Freak, un progetto tedesco di tre personaggi legati alla techno sperimentale, un ottimo lavoro questo uscito praticamente nel 2010, un Make Me Real techno sperimentale con molti fraseggi jazz, con questa ripetitività ossessiva di questi piani ipnotici e dei suoni anche sotto piuttosto inquietanti. E velocissimamente, perché ormai il tempo è finito, essendo partiti molto in ritardo, chiudiamo la prima parte della trasmissione e poi riprenderemo dopo il GR di Radio Popolare Network con un progetto di un personaggio legato al progetto Prurient, Vatican Shadow, un progetto uscito praticamente nel 2011, un progetto antimilitarista contro CIA, Vaticano, Stati Uniti, e qua ne potremo parlare perché insomma in questi giorni sta succedendo veramente qualcosa di terrificante in Palestina, il massacro da parte di Israele. Ovviamente qua siamo veramente connessi anche alla dinamica lavoro non lavoro, sta dentro anche la dinamica di guerra, dei territori, dell'occupazione, e fa pensare che molte radio e anche purtroppo la buona Radio Popolare ha pompato a manetta il buon Obama durante le elezioni. Obama, la prima dichiarazione che ha fatto dopo l'attacco di Israele, è appoggio totale ad Israele. Dunque siamo qui, siamo pieni di contraddizioni anche pesanti. Chiudiamo così Vatican Shadow. L'album in questione è un album abbastanza indicativo, legato anche a Mohammed Atta's Apartment Slated for Demolition, uscito proprio quest'anno 2012. Chiudo così, partirà il GR di Radio Popolare, verrà tranciato sicuramente il brano, ma lo riprenderemo nella seconda parte. Buon ascolto.